Allora 11:47, dunque l'Italia ha avviato, sottoscrivendo un memorandum d'intesa tra Netanyahu e Letta, quando appunto il primo ministro israeliano è venuto in visita qui a Roma, e quindi appunto è stato sottoscritto, siglato questo memorandum che sancisce la collaborazione nel settore delle risorse idriche tra ACEA e questa società idrica nazionale israeliana, Mekorot. Dunque ovviamente i motivi che attengono a invece una netta contrarietà a questo tipo di sinergia, di collaborazione, sono tantissimi. Ce li facciamo spiegare bene da Stefani, che è diciamo tra le portavoci della campagna contro l'accordo ACEA-Mekorot, e che salutiamo innanzitutto. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora, dunque, si può tranquillamente affermare che questa società idrica israeliana Mekorot è impegnata nel mantenimento dell'occupazione israeliana, vero Stefani? Assolutamente, e questa è una ditta dello Stato di Israele, e nell'82 è stato affidato dall'occupazione israeliana alla Mekorot tutta l'infrastruttura palestinese per quanto riguarda l'acqua, per il prezzo simbolico di uno shekel, che oggi vale circa 20 centesimi di un euro, quindi un prezzo simbolico. E da allora gestiscono tutta l'acqua palestinese e sottraggono l'acqua illegalmente dalle falde idriche palestinesi, e questo ha portato anche al prosciugamento di fonti idriche palestinesi, e poi forniscono questa acqua rubata ai palestinesi alle colonie illegali in Cisgiordania, quindi doppia violazione del diritto internazionale. E la maggior parte tante comunità palestinesi poi non sono collegate al sistema alle infrastrutture per l'acqua, e devono comprare la loro stessa acqua rubatagli dalla Mekorot, poi facendogli pagare i prezzi più alti di quello che fanno pagare alle colonie. E quindi c'è una discriminazione sistematica per quanto riguarda la fornitura dell'acqua alla popolazione palestinese. Questo è stato documentato da tante organizzazioni come Human Rights Watch e Amnesty International, che hanno visto questo come uno dei tanti mezzi che Israele usa per costringere il popolo palestinese a lasciare la propria terra. Certo, e peraltro insomma sulla base degli accordi di Oslo i palestinesi in pratica sono impediti nella possibilità di sviluppare un proprio settore idrico, e dunque sono praticamente costretti a rifornirsi dalla Mekorot. Sì, questo è stato fatto sotto Oslo, ci sarebbe questo comitato congiunto, diciamo, tra Palestina e Israele, però Israele ha il voto di veto su qualsiasi proposta palestinese, e lo usano, e quindi il popolo palestinese è proprio negato questa possibilità di sviluppare un proprio sistema idrico. Senti, dunque il nostro governo appunto ha avviato questo memorandum d'intesa, chiaramente insomma sembra non accorgersi, ovviamente non è proprio così, di quanto accade e del ruolo che riveste questa azienda insomma nei territori occupati. Va detto però che questo tipo di sinergie sono stati avviati anche da altri paesi, ma alcuni sono invece riusciti, come dire, a sottrarsi a questo tipo di incombenza, insomma. Ad esempio c'è un fornitore d'acqua potabile olandese che ha proprio dichiaratamente cessato questi accordi di cooperazione con questa compagnia, proprio per un impegno, insomma, a non essere coinvolta in cose di questo tipo, no? Sì, questa è stata una dimostrazione di coerenza con la politica europea contro gli insediamenti. Quindi c'è la ditta Vitens, che è il primo fornitore in Olanda, che ha interrotto questo accordo con la Mekorot, e quindi è un esempio che il governo italiano dovrebbe seguire. Noi abbiamo lanciato questa campagna per esigere che la CEA recede da questo accordo, e anche il Comune di Roma dovrebbe muoversi, visto che è per 51% proprietario della CEA. Ma chiediamo anche tutti i comuni serviti dalla CEA, che vanno dalla provincia di Roma, Frosinone, in Campania, in Toscana, di attivarsi per convincere la CEA di ricevere da questo accordo, seguendo l'esempio della Vitens, di questa ditta olandese. Assolutamente. Senti Stefani, ci sono in corso una serie di iniziative. In generale c'è una raccolta di firme che diciamo voi state organizzando. L'appello lo si può trovare, diccelo tu che è meglio. Sì, la raccolta firme, che ogni firma manda poi un'email al Comune di Roma, al Consiglio Comunale e alla CEA. Si può trovare sul sito di BDS Italia, che è bdsitalia.org. E poi questa è una campagna che portiamo avanti insieme con i comitati per l'acqua pubblica. Proprio oggi parte tre giorni di presidio alla regione per quanto riguarda il referendum per l'acqua pubblica. E quindi oggi parte alle 17, ci sono comitati anche dalla provincia che vengono a partecipare, e con un po' di musica dalle 19 per aprire questo presidio di tre giorni. Domani, giovedì, ci spostiamo invece sotto la CEA per parlare perché poi la questione di acqua ovviamente tocca tanti argomenti, dalle tariffe alzate ai distacchi, e poi questo accordo con l'Ecolot. Quindi dalle 10 di domani mattina siamo davanti alla CEA, per tornare nel pomeriggio alle 16 con delegazioni da tutto il territorio di Roma, sotto la regione. E poi di nuovo venerdì dalle 10 fino alle 17 stiamo sotto la regione, quindi per parlare di acqua, perché questi accordi che sta facendo la CEA va anche nel senso di una privatizzazione o mercificazione dell'acqua, e quindi è una lotta che portiamo avanti insieme con i comitati per l'acqua pubblica. Assolutamente, noi speriamo infatti anche di averli al telefono tra poco con noi per parlare con loro anche di questi aspetti. Stefani, senti un'ultima cosa, tu sei anche interna alla campagna di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni, cioè BDS Italia. Volevo chiederti, queste campagne insomma stanno comunque riscontrando un notevole successo, nel senso che comunque è un movimento in espansione, sono molte le imprese che sono anche allarmate e preoccupate, imprese israeliane, di questo tipo di pressioni. Ecco, un'ultima battuta su questo e poi ci congediamo. Sì, si è visto moltissimo in queste ultime settimane con governi, con imprese che in qualche modo prendono misure contro gli insediamenti. Ovviamente la campagna BDS va oltre la questione degli insediamenti, ci sono anche la questione dei pari diritti per i cittadini palestinesi dentro Israele, e poi tutti i palestinesi che vivono come rifugiati all'estero. E comunque si è visto anche grandi fondi di investimento che hanno ritirato i soldi dalle banche israeliane che hanno sede nelle colonie, e quindi è una cosa che sta cominciando a mordere a Israele, anche con un impatto sull'economia di Israele. Stamattina c'è stato l'annuncio sul giornale israeliano di Haaretz che Netanyahu ha convocato un incontro ministeriale proprio per parlare della minaccia BDS, la prima volta che parla seriamente della questione. E circa 15 minuti dopo, sempre sul giornale di Haaretz, la notizia che ha disdetto questa riunione. Quindi sì, si vede comunque che comincia a preoccupare sul serio il governo israeliano. Certo, e di questo insomma in una certa misura dovreste esserne contenti e contente, perché è diciamo la prova provata che evidentemente questa campagna diventa sempre più efficace, quindi diciamo che la questione principale è quella di estenderla, diffonderla quanto più possibile anche a livello internazionale, ovviamente, come già sta accadendo. Stefani, noi ti ringraziamo tanto per il tuo intervento, a presto, ovviamente rimandiamo tutti e tutte a partecipare a questa 3 giorni di mobilitazione sotto la Regione Lazio e sotto ACEA domattina. Ciao, grazie. Grazie a voi. Radio Onda Rossa, the alternative station in Rome, 87.9 FM.